Buonasera da Max Macchia e da 451 Frammenti Sonori. Questa sera, insomma, non propriamente solo, ma accompagnato, però, insomma, da una voce che probabilmente non sentirete se non così in maniera fantasmatica. 451 Frammenti Sonori che questa sera così vi presenta e vi butta, come dire, così direttamente in viso quello che è lo shock addizionale. Al plurale, shock addizionali, non parleremo di Gurdjieff, anche se poi la faccenda dei shock addizionali riportano direttamente al grande mistico del Novecento, ma shock addizionali come momenti, insomma, chiave e scioccanti, appunto, e anche con quell'aggiunta, appunto, quell'addizionalità che vengono da anche una lettura a volte cinica dell'evento trattato, anche magari soltanto musicale, altre volte invece quasi spostandolo da quello che è l'evento storico per portare appunto una riflessione, quasi una sorta di spostamento brechtiano, potremmo dire così, quindi fuori dalla storia per far riflettere appunto a maggior ragione su un punto nodale, drammatico, tragico o comunque particolarmente scioccante, appunto, della storia, ovviamente, tante storie, ma soprattutto musicali, come quella di Implog, che ovviamente non può soltanto essere tale, visto che stiamo parlando della New York della fine degli anni 70, dei primissimi anni 80, quindi è una New York piena di creatività, piena di rabbia, che veniva canalizzata in maniera piuttosto creativa dentro quella scena, insomma, detta no wave, quella della no New York, quella della Lower East Side, appunto, no new yorkese, dove alla fine degli anni 70 c'era una situazione che, perlomeno così è stata raccontata, di degrado e di abbandono. La gentrification ancora non era molto lontana, appunto, dentro le corde di quella New York si muoveva a quello che era anche forse oltre il punk inglese, proprio una sorta di derelitti, reietti, che però con una grande fantasia creatrice e con, appunto, quello spirito che tra nichilismo e così volutamente scioccante e momenti, appunto, di grande illuminazione creativa davano, insomma, alla luce oppure alle tenebre per tanti aspetti, e musiche che all'epoca, ma tuttora forse per molti aspetti, sono inaudite. Implog era un progetto di Don Christensen insieme a Jody Harris. Passarono poi da questo progetto, che è durato alcune settimane, molti dei progetti, insomma, di quel periodo erano veramente cose di pochi giorni, ma pochi giorni esplosivi, pochi giorni in cui si consumava, si bruciava il tutto, veramente una sorta di shock profondo anche della musicalità, ma anche, appunto, di un'esistenza vissuta in maniera marginale, appunto, fatta esplodere proprio in quanto tale. E passarono da in quei mesi, insomma, oltre che Don Christensen e Jody Harris, anche il grande Robert Quine, poi dentro Material, dentro vari progetti, insomma, che l'hanno visto uno dei batteristi più incredibili, più veramente eclettici e fantasiosi. Poi, vabbè, Don Christensen si perderà un po', e un po' passerà dalle maglie di un altro matto, che è James Change, con i suoi Contortion, oppure dentro il progetto immediatamente successivo, ad esempio James Change, ma ricordiamo anche Teenage Jesus and the Jerks, della altrettanto folle e geniale Lydia Lunch. Insomma, personaggi che poi hanno fatto anche altro, soprattutto altro, e andiamo, appunto, a prendere uno dei pezzi più incredibili di quel periodo, Holland Tunnel Dive, dove si sviluppa da un rumore bianco, un una sorta di ritmicità robotica e poi quasi insomma in maniera sorprendente, se non fosse che già di per sé insomma il pezzo parte in maniera piuttosto eccezionale e si sviluppa quasi una specie di funky astruso e assurdo soprattutto. Holland Tunnel Drive, appunto, da una di quelle schegge impazzite, appunto, scioccanti della New York della fine degli anni 70. Tunnel dive. I wanna ride. other side. Gonna take all double dive. Not a water ride. A dir poco allucinante quello di Holland Tunnel Drive, perché non si riesce a definire, insomma, dal power electronics al funky e a momenti di cold wave, di quel suono wave elettronico decisamente spostato sull'elettronica, su quell'elettronica glaciale che in quegli anni descriveva anche un periodo di crisi, ma una crisi decisamente vissuta in maniera aggressiva, con quella appunto aggressione anche verso sia l'establishment musicale, appunto sia in Inghilterra con il punk, ma forse in maniera anche più radicale in America, soprattutto a New York, appunto con la New Wave, non è un caso, insomma, poi da questa genia assurda siano veramente usciti tra i personaggi più importanti poi delle musiche degli anni Ottanta, magari perdendo o forse, insomma, trasformando quella carica iconoclasta in qualcos'altro. Ma ricordiamo anche personaggi che di fatto partivano da ambiti anche diversi, sempre newyorkesi, se pensiamo a Glass, che tutto un tratto si innamora di quelle musiche e si avvicina, insomma, con il suo massimalismo di quel periodo, poi, insomma, il Glass degli anni Ottanta, insomma, cambierà completamente faccenda, ma potremmo citare i grandi padri di quel suono che appunto poi si butteranno a capofitto, come Glen Branca e perché no Rich Chatham, ovviamente, perché no non citare forse uno dei padri eccezionali soprattutto di quell'attitudine scioccante, incredibile che fu quella dei suicide, già insomma chiamarsi suicidio in America e tentare, insomma, la strada musicale. E già di per sé, insomma, faccenda piuttosto scioccante. Uscivano dall'arte radicale, quella dedicata all'azione situazionista, momenti appunto di happening aperto, i primi lavori tra l'altro di Suicide editi dopo molti anni hanno quell'aspetto musicale decisamente sperimentale, aperto appunto in termini di elaborazione multimediale anche, e non solo, anche proprio con una politicizzazione del fatto artistico che ha sempre reso le musiche dei Suicide eccezionali, anche quelle, appunto, visto che stavo citando uno dei due, Martin Rev, quindi uno dei papà, ecco, e anche appunto con carriere poi soliste che si sono sviluppate soprattutto per Alan Vega, spesso passato qua, 451 frammenti sonori, lavori eccezionali, ricordiamo il primissimo lavoro, lavori con Panasonic, fino ad arrivare, insomma, ai nostri giorni con dischi seriamente ancora spostati, e spostato fu anche un disco incredibile, magari meno celebrato rispetto ai dischi di Alan Vega, ovvero il primo di Martin Rev, l'omonimo, dove tutta la Cold veniva girata, rigirata appunto da maestro come Martin Rev, maestro chiaramente cattivo, un cattivo maestro sul serio, e adesso capirete anche perché poi arriveremo ai cattivi maestri italiani, anche se poi bisognerebbe fare dei distinguo, ma appunto magari li faremo dopo. E Martin Rev, cattivo maestro americano di sonorità che vivevano tanto minimalismi portati a quasi allo scheletrico, e con un suono poiché diventava fantasma e diventava anche eccezionalmente espressivo, di una potenza più unica che rara, con Suicide, ma anche appunto con questo splendido lavoro appunto solista del 1980. E andiamo a sentire appunto le tentazioni scioccanti appunto di Martin Rev. We'll be right back. come incontrare un suono cosmico ma con una deviazione che porta direttamente a battersi dentro una notte newyorkese come quella tante volte descritta appunto dalle musiche incredibili di Martin Rev, sia con Suicide ma sia in questo gioiello incredibile che appunto è il primo disco omonimo del 1980. E se Martin Rev faceva così illuminare le tenebre newyorkesi, non so, magari che si possono vedere dentro a Cruising di Friedkin, tipo, se volete vedere un immaginario insomma pieno di quella New York di cui abbiamo accennato prima con Implog e con appunto Martin Rev, Snatch, un leggendario punk duo newyorkese, sempre portava insomma il punk forse livelli sempre in nuce, che sono stati insomma del punk anche forse voluto e mai riuscito, ad esempio John Lydon, Johnny Rotten all'epoca dentro Sex Pistols, con appunto quelle sue influenze cosmicheggianti, quel tentare insomma di reggare e quindi anche di dabbare in maniera insomma piuttosto creativa, e ci riuscirono però appunto dei personaggi come le Snatch, appunto Patty Paladin e Judy Nylon, con anche provocazioni non soltanto sessuali, sentiremo anche provocazioni belle buone politiche, comunicative, se non appunto legate proprio a un linguaggio che viene stravolto. Per il momento sentiamoci Black Market e poi appunto sentiamo un pezzo che diede anche un po' di polemia alle signorine appunto Patty Paladin e Judy Nylon. Yeah. Durchsage der Polizei. Das Bundeskriminalamt gibt Ihnen Gelegenheit, Gespräche der an den Morden in Köln und der Entführung des Dr. Schleyer beteiligten Terroristen zu hören und bittet um Ihre Unterstützung. Hören Sie sich bitte die jetzt folgenden Stimmen in Ruhe an und achten Sie besonders auf die Eigenarten des Tonfalls, der Ausdrucksweise und der Sprachfärbung. Aufzeichnung 1. Können Sie ihm vielleicht etwas ausrichten? Ich möchte ihm gerne eine Mitteilung des Kommandos X-Tauschers machen. Ich werde ihn ungefähr einer Stunde noch mal sprechen. Aufzeichnung 2. Aufzeichnung 3. Hallo, wie spricht das bitte? Naja, wir sind leider eben unterbrochen worden. Sie hatten den Text jetzt richtig. Wo sind denn die gegebenen Zeit erfahren? Das Ganze ist unterschrieben mit Kommando 6.000 und kriegt den Daten 12.1977. Dazu ist dann noch eine Benennung zu machen. Das wäre für die Geschichte. Und das wäre dann auch alles in diesem Bereich gewesen. Sees herself comfortable too. I didn't even realize it. I guess I might as well do my makeup. In case we get out of this thing, I want to look good for those pictures. It's my only claim to fame thus far. Questo sparo, forse, se non va detto niente, la lingua tedesca forse vi dovrebbe insomma far ricordare appunto come uno shock addizionale quello della lotta armata tedesca, pezzo della Snatch che così, tra l'altro con una produzione anche di Brian Eno che all'epoca non era un perfetto sconosciuto, ma tant'è che insomma se ne sono bellamente fottuti, hanno fatto anche molto bene e hanno voluto appunto dedicare, trattando vario materiale audio che appunto era relativo al gruppo armato tedesco RAF, e quindi hanno così di fatto insomma trattato in maniera anche piuttosto insomma creativa quello che il linguaggio sia televisivo ma mass mediatico, che appunto il quasi il tornamento che riescono a fare attraverso il suono reggato, dabbato, e appunto con questo sparo finale che riporta insomma in un certo qual modo appunto alla risoluzione anche del pezzo stesso. E Snatch se trattarono RAF parlando insomma dell'Italia e di Laxative Soul, ovvero Roberto Marinelli, nei primi anni 80, quindi ci trasferiamo da New York qua in Italia, dove già insomma abbiamo anche avuto varie volte insomma modo di ascoltare, e c'era un personaggio insomma come Maurizio Bianchi che devastava insomma a livello linguistico il codice sonoro, lo stesso Industrial insomma minimalizzato, una sorta insomma di suono infinitamente e luppato in maniera tale quasi da appunto perdere ogni senso di ritmicità, creare un quell'ambiente industrial. Beh, per molti aspetti Laxative Soul di Roberto Marinelli era contiguo, e anche per proprio periodi storici, stiamo parlando della fine degli anni 70, primi anni 80, e fu un periodo piuttosto insomma particolare per questo paese, con insomma un momento traumatico che non è stato ancora assolutamente assorbito, anzi nei primi anni 80 facevo uscire un gioiello come Twist and Disease e Laxative Soul, dove c'era anche una registrazione anche qua insomma come per le Snatch di Raff, e beh, ci furono un po' di problemini perché insomma la registrazione riguarda la rivendicazione del delitto Moro e appunto dove poi è stato ritrovato il corpo, quindi l'indicazione, una famosa telefonata dove appunto l'ottimo artista si presenta come Nicolai, così è chiamato il pezzo, e la registrazione insomma tuttora ha un potere piuttosto insomma scioccante, appunto traumatico, ancora di un trauma che non si riesce insomma ad affrontare con le dovute proporzioni. Vi leggo insomma quello che scriveva all'epoca appunto Roberto Marinelli nel suo allegato di Twist and Disease. Tutto è organizzato per ripercorrere mentalmente praticamente la trasposizione di stati d'animo fortemente suggestionati da avvenimenti ai quali viene attribuito un peso reale diverso da quello che tutti si aspettano. Quindi anche qua una specie di spostamento appunto per far riflettere appunto su un momento storico, un suono e quello appunto che è come dire rivivere poi appunto una sorta di momento fortemente insomma drammatizzato, e ci andiamo a sentire appunto dal suo Twist and Disease Laxative Soul, prima con Xanthus Yahoo, c'è un Yahoo degli anni 80, non so a che cosa si riferisse all'epoca Marinelli, e poi appunto sentiremo la molto insomma contraddittoria e citata insomma a Nicolai. The truth, I'm scared shit. Slow moving target for any dog punks. Yeah, I know the beat, full of surprises. Don't feel safe on these streets with just a gun, a fuzz box, and a stick. My wife. Thank you. Milano. Ha capito? Sì, ecco, non posso stare molto al telefono. Quindi dovrebbe dire questa cosa, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono sarà sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente a dire questo, adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onore Aldo Moro. Il corpo dovrei fare? Mi sente? No, si può ripetere il corpo suo. Non posso ripetere, guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. In via Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle botteghe oscure. Va bene? Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Sì, no. Mi dispiace, ma... Cioè, se lei telefona, non... verrebbe meno l'adempimento delle richieste che sarà, ce l'ha fatto espressamente qui. Parli con mio padre, la prego. Va bene, pronto? Pronto? Grazie mille. Guardi, lei dovrebbe andare dalla famiglia dell'onorevole Moro, oppure mandare il suo figlio, comunque telefonare. Sì. Basta che lo facciano, il messaggio sarà già suo figlio. Sì. Va bene? E non posso andare io. Lei può andare anche lei. Perché mio figlio non sta bene. Può andare anche lei, va benissimo. Sì. Certamente. Così lo faccia con urgenza, sì. Perché le volontà, l'ultima volontà dell'onorevole era questa, cioè di comunicare alla famiglia, perché la famiglia doveva riavere il suo corpo. Va bene? Arrivederci. Va bene. Black silk stocking.

can be someone.